Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci Oscar, le 8 e 20 minuti. Dai che riparte una nuova settimana. E lo so che tu stai facendo il countdown. No, vabbè, ma allora, dai, tre settimane. Tre settimane di sveglia all'alba. Tre settimane di sveglia all'alba. Allora, oggi siamo. È un giorno pieno di memorie anglo-sassoni, perché 10 luglio sono al di là nel tradizionale calendario liturgico, erano martiri romani come Seconda e Rufina, martiri nel 257, come Vittoria e Audace, martiri sotto Decio. In realtà poi per secoli il 10 luglio è stato il giorno di due sante con lo stesso nome, una del tra il 7 e l'8 secolo, una due secoli più avanti, tra le Ardenne, quindi siamo a cavallo tra i Paesi Bassi, la Francia ed influenza germanica. Amalberga si chiamano, che poi insomma in italiano diventa Amalia, perché gli Amali erano una parte, erano un clan degli Ostrogoti, quindi Santa Amalberga. Auguri a chi si chiama Amalia. Ma devi sapere che oggi per me è un giorno importante da sempre, perché è l'anniversario di una cosa avvenuta o meno, che però storicamente fin da il 200, il 300 è entrata in tutte le tradizioni storiografiche della letteratura e anche della narrativa della tradizione britannica, perché devi sapere che oggi secondo le cronache antiche, nella città di Coventry, di cui era signore il suo marito, avviene la mitica cavalcata nuda di Lady Godiva, Godiva, e comunque Godiva è un adattamento latino, perché in anglosassone sarebbe God, Gaifu, cioè il regalo di Dio. Perché cavalcava nuda Lady Godiva? Te lo ricordi? No, per protesta contro le tasse. Ah. Perché il marito, eccolo lì, col quale lei aveva un problematico rapporto, è per questo che ti piace Lady Godiva, non per... Ma pensa al simbolo fantastico, nel 1040 la moglie del signore che impone le tasse, prendetevi, per protesta anche questo, contro il marito, va nuda in giro. Perché noi qua latini siamo rimasti da secoli solo a fare i guardoni, era nuda, era nuda, e dimenticando che il vero era fine nuda per le tasse, era questo: mi spoglio come voi, poveri soggetti, al dominio incontrastato del mio marito, perché vi rende nudi, vi leva tutto. E qua, cari ascoltatori, pentiamola di fare i guardoni, pensiamo a guardare solo a colui che vi spoglia, cioè lo Stato. Questo è la sintesi. Questo è il sunto. Oggi io voglio rendere gli auguri a uno dei più intramontabili simboli del calcio italiano, perché Luciano Moggi è questo, e rimarrà così 80 anni, fino alla fine dei suoi giorni. Tra l'altro portati benissimo, portati meravigliosamente, molto meno di 80 portati anni, meravigliosamente, perché... lucidissimo, coerente, punto, non aggiungo altro. Ma Oscar, ma lo sai cos'è un SMS bombing o un mail, sì, bombing? Siamo sottoposti qui alle 24 di un mail bombing. Credo di saperlo. Perché coloro che sono andati a Pesaro in piazza per protestare contro il decreto legge di Lorenzin sui vaccini, dicendo che l'Italia sarà capofila di danni da vaccino con questa ecco, già per il tono decreto con cui hai detto questa cosa, adesso te ne becchi altri 10.000 di meno. Altri 10.000 stanno bombardando di SMS, non solo noi, anche altre radio, dicendo: non parla nessuno di noi, servi, la libertà io non di stampa. So, io muore. Ad alcuni ho risposto ieri, a centinaia e centinaia. Zerbini. Vi ho detto, ma chi è che vi ha organizzato questa cosa? Certo, è chiaro che ha organizzato. Perché chi ve l'ha organizzata non fa bene il suo mestiere, perché 9 di 10 mail ricevute in media erano di insulti. Allora, se pensate che sia un buon sistema, vabbè, è ovvio, ma detto questo, se pensate che sia un buon sistema insultare per avere... non lo so chi vi ispira. Chi vi ispira è un po' turbato. Il principio è quello: parlate di questo. Se non ne parlate, vuol dire che siete schiavi, servi, no, non liberi, maggior parte prezzolati. Non ne avete parlato. Schiavo miserabile che pretende di avere la schiena dritta. Oh, oh, vai piano, per favore. Comunque è veramente impressionante. Ieri è stata una giornata molto significativa dal punto di vista della riflessione su come si arriva a livelli di parossismo. Si vedono nei segretari di partiti e si vedono anche in chi organizza queste cose. In ogni caso, va bene, dai, passiamo oltre. Guarda che i temi che rimangono sul tavolo sono sempre l'immigrazione, perché l'Italia, domani c'è a Varsavia il importante incontro europeo in cui l'Italia cerca di cambiare Triton, no? questo sistema nel quale siamo entrati noi, no? Di fatto, sì, ma di fatto c'è una polemica roventa, perché il Mabolino dice: caro mio, caro Renzi, sei stato tu e Alfano ad accettare l'idea che venissero solo nei porti italiani. Lui svicola via dicendo invece: no, ma è ora che il problema è quello di non accettare che vengano solo nei nostri porti. E Mabolino, tra l'altro, secondo me oggi sulla stampa fa anche, come sempre, una delle più ragionevoli proposte. Invece di urlare, dice: scusate, ma almeno proponete dei visti a tempo per poi smistare. Ma Bonino mi sembra più ragionevole. Dice: la proposta dei radicali è questa: visto che c'è un grande afflusso di migranti, si può applicare questo per motivi umanitari, l'idea di poter dare loro un permesso di soggiorno temporaneo di un anno, rinnovabile per un altro anno, e con quello possono circolare tranquillamente nell'Unione Europea. E questa è una proposta concreta. E poi, insomma, di economia anche parliamo. Comunque... Perché poi Renzi ha lanciato questa nuova linea: violiamo per 5 anni i limiti europei, facciamo più deficit per 5 anni, finanziamo in deficit le promesse elettorali. E è singolare, oggi alcuni membri del governo, come Calenda, dicono: ma veramente, insomma, ci vorrebbe altro, no? Le promesse elettorali. Morando dice addirittura incompatibile con la linea seguita dal governo. Del Rio invece sposa integralmente la linea: basta fiscal compact, basta pareggio di bilancio. Insomma, Renzi agita con grande forza tutti i giorni, come vedi. Comunque, di questi temi politici e anche economici che ci riguardano, vogliamo parlare con l'ex direttore del Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli, che è in giro anche per promuovere il suo libro Poteri Forti o Quasi, edito dalla Nave di Teseo. Buongiorno De Bortoli, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Chiaramente l'immigrazione rimane, insomma, il tema principale. Adesso, ha sentito, è tutto un profluvio di aiutiamoli a casa loro, sarebbe meglio poi peraltro a casa propria, ma comunque al di là della sintassi, il concetto dell'aiutiamoli a casa loro, insomma, sta facendo sempre più proseliti. Le piace? Ma devo dire che lo slogan di Salvini e della Lega hanno ovviamente un assoluto copyright su questo. Naturalmente è un modo forse di aggirare anche il tema, perché si tratta, per esempio, di parlare più in profondità ovviamente di quella che è stata l'applicazione concreta degli accordi europei, e certamente discutere su quello che è accaduto nel 2014 con il fatto che l'Italia ha accettato che tutte le navi che soccorrono i migranti in mare debbano poi dopo portare tutti salvati nei nostri porti. Ma che abbiamo fatto? Ci siamo, come dire, adesso non vorrei usare un'espressione brutale, ma si può capire, ci siamo messi nei guai da soli, ecco, mettiamola così. Ma io penso che lì la Bonino è stata molto chiara. Io penso che dovremmo ragionare su quello che è accaduto nel 2014. Ci sono state delle ragioni per cui abbiamo ceduto su questo aspetto? Probabilmente sì, perché forse in cambio abbiamo ottenuto una maggiore flessibilità sulle regole europee per quanto riguarda l'economia, insomma. Però evidentemente la mancanza poi di solidarietà che è stata visibile nell'ultimo vertice di Tallinn forse poi dopo si lega anche alla nostra inaffidabilità nel rispettare i patti, perché poi prima parlavate della proposta di Renzi, ma insomma poi il fiscal compact l'abbiamo votato anche in Italia, con l'eccezione della Lega, così come il bail-in fu votato dai nostri europarlamentari. Ecco, forse c'è un problema anche di credibilità dei nostri impegni in Europa. Forse questo è un limite da superare nel momento in cui, come scrive Renzi nel suo ultimo libro, nel momento in cui chiediamo poi di violare una serie di regole che abbiamo sottoscritto anche noi. Allora, siamo credibili? Per esempio, siamo credibili nel raggiungimento di un obiettivo di riduzione del debito? Beh, questo è un grande interrogativo. Eh sì, è singolare poi che appunto forse abbiamo fatto questo, guardavo anche Oscar, per ottenere in cambio qualcosa e adesso quel qualcosa chiediamo di rinegoziarlo di fatto quando Renzi chiede maggiore deficit e parametri al 2,9% di Maastricht in modo da... Sì, c'è un aspetto, se posso aggiungere, sì, a questa proposta di Renzi, che naturalmente è una proposta interessante, però potremmo ragionare sul fatto che negli ultimi anni è successo esattamente questo, nel senso che abbiamo finanziato in deficit tutta una serie di misure, il bonus degli 80 euro, la decontribuzione per il Jobs Act, insomma, con risultati sulla crescita che sono stati sostanzialmente modesti, anche se adesso naturalmente registriamo per fortuna dei dati migliori. Ma quello che trovo singolare, non so come la pensiate voi, ma insomma, in tutto questo, tanto il debito, il risultato sul debito è soltanto una variabile eventuale alla fine, no? Cioè si lascia tutto ad una ipotetica crescita che speriamo di avere. Ma in grande assente è la spesa pubblica, nessuno vuole parlare della spesa pubblica, come ridurla, renderla più efficiente, quindi liberare quelle risorse che dovrebbero poi consentire gli interventi di cui parliamo e soprattutto di promuovere gli investimenti. Ma è detto, sai che sulla spesa pubblica il governo Renzi ha praticamente affermato, anche i prestigiosi quotidiani internazionali, come il Wall Street Journal e Financial Times, ohimè, ci sono un po' cascati, l'idea affidata a Yoram Gutgeld, quella di dire la riallocazione della spesa equivale alla sua riduzione. Molti credono davvero che l'abbiamo ridotto, poi non è così. Ma detto questo, a me colpisce una cosa di fondo. Io non so come si possa reggere, non riesco a immaginarmelo, quindi chiedo al direttore di lunga esperienza, 10 mesi così. Non faccio una domanda moralistica, è ovvio, le campagne elettorali ne abbiamo viste tante nella nostra vita, ma c'è un punto che riguarda il governo Gentiloni alle prese in Europa proprio con quest'estate la partita dedicata, visto che fino a dopo le elezioni tedesche si deve inventare argomenti di forza e contemporaneamente di misura, di credibilità per dare energia e sostegno alle sue richieste di correggere la politica dell'Italia come unico porto di sbocco, corridoio aperto dall'Africa verso i migranti da una parte, e dall'altra poi deve andare avanti su una linea che ha confermato, che è quella di una, sia pur parziale, però continuità nella riduzione del deficit italiano, tutto il contrario di quello che Renzi propone adesso. Come si fa per il governo Gentiloni, i cui membri oggi si dividono radicalmente, Del Rio abbraccia integralmente la linea Renzi, Morando dice ma veramente ne siamo una linea incompatibile con quella che Padoan fino a questo momento ha portato a Bruxelles e che gli è valsa risultati da una parte, più flessibilità, ma anche dall'altra grande consenso, autorevolezza. Come si fa a immaginare, secondo il Borchio, 10 mesi così? Il governo Gentiloni tra... È difficile immaginarli questi 10 mesi. Per fortuna del nostro paese noi abbiamo un premier che è paziente, capace e che sa sopportare anche le contraddizioni della sua maggioranza. Tra l'altro mi chiedo, ma Renzi ha avvisato Gentiloni di quello che era contenuto nel suo libro? Perché è ovvio che questa proposta rappresenta una proposta importante che va discussa, ma certamente condiziona l'operato del governo Gentiloni e anche il dibattito fra Padoan e la Commissione europea nei prossimi mesi, perché insomma, se noi stiamo per scrivere, cioè, questa proposta di Renzi, come lui dice, non riguarda la legge di bilancio del 2018 che dovrà essere fatta in autunno, però la condiziona fortemente, è un'ipoteca estremamente importante sotto il profilo politico e che credo influirà sulla concessione di quell'ulteriore flessibilità che peraltro dovrebbe in parte disinnescare le clausole di salvaguardia. Il discorso che fa Renzi parte dall'idea che le clausole di salvaguardia si disinneschino da sole, che quel deficit che comunque si crea, maggiore fino al 2,9%, serva interamente per ridurre le tasse e forse magari ci faranno passare quel disinnesco delle clausole di salvaguardia sull'IVA come una riduzione di tasse, che non è ovviamente. No, invece che un rispetto, ecco. Ecco. Di quello che era stato annunciato. No, poi bisogna capire, perché De Bortoli oggi calenda, proprio si parla di rapporti tra attuale governo e segretario del maggiore partito, il Partito Democratico. Calenda dice sì, la proposta si può anche sottoporre all'attenzione, ma a cosa servirebbero le maggiori risorse? A nuove mance elettorali? Allora meglio tenersi i parametri europei. Ecco, questo è il discorso che il tecnico Calenda può fare, ed è un discorso corretto, perché insomma è chiaro che qui c'è sempre un uso della spesa pubblica, che nella Prima Repubblica c'era una definizione della Malfa che diceva che è il cemento del consenso. Beh, insomma, è un cemento a presa rapida del consenso, evidentemente, però non può essere l'unica leva politica di questa fase della vita del nostro paese. Insomma, si possono ottenere dei voti anche dicendo: noi spendiamo meglio i nostri soldi, evitiamo gli sprechi, liberiamo delle risorse per pensare alle generazioni future, per creare dei posti di lavoro veri e non precari, insomma. Ecco, questo discorso non c'è, c'è soltanto l'affannosa rincorsa ad avere flessibilità, cioè ad avere comunque dei soldi da spendere, mentre in realtà non si affronta il nodo vero, che è quello del debito pubblico. Il debito pubblico alla fine della proposta Renzi è la risultante eventuale, come doveva essere peraltro in questi tre anni, perché in questi tre anni c'era la promessa che il debito nel rapporto con il prodotto interno lordo sarebbe sceso, cosa che non è accaduta. C'è poi la proposta di fare un'operazione straordinaria. Bene, il tempo per fare un'operazione straordinaria è questo, con i tassi bassi, ma più ci si avvicina alla fine della politica monetaria e della gestione di Draghi, meno sarà facile introdurre operazioni di questo tipo e farle digerire al mercato. Infatti bisognava farlo anni fa, però detto questo, sono i due temi, oltre alla debito pubblico, io ce ne aggiungo un altro tema assente, secondo me determinante purtroppo, per spiegare perché da prima dell'euro continuiamo a perdere colpi sui nostri partner, sia quando le cose vanno bene sia quando le cose vanno male, è la produttività, che sembra non occupare proprio la testa delle forze politiche. Ne faccio una questione non solo di governo, maggioranza, ma di tutte, cioè la produttività non c'è, mentre è quella che determina il fatto che cresciamo meno, distribuiamo peggio e abbiamo un welfare concentrato non su chi non ha, purtroppo, ma su chi magari ha già e ha già tanto. Allora, lei nel suo libro, De Bortoli, torno al libro, perché ne hanno tutti parlato, per la questione ovviamente Renzi, eccetera, eccetera, d'accordo, però dà anche a chi fa il nostro mestiere ai lettori un esame che a me piace, ma insomma è severo, è giustamente severo verso le responsabilità delle classi cosiddette dirigenti dell'economia, della finanza, eccetera, eccetera, non solo della politica. Le chiedo solo una cosa: lei ha una qualche speranza che qualcuno, qualche leader, qualche partito, per esempio, prenda la produttività e se ne occupi davvero insieme al debito pubblico? Vede qualche segno di novità in come sono gestite le crisi bancarie in questi anni, dal 2014-2015 in poi? Sono severo nel mio libro sull'attuale classe dirigente italiana, sui cosiddetti poteri forti, sì, che poteri forti non sono, purtroppo, insomma, quindi forse nemmeno responsabili. Perché lei, Giannino, prima sottolineava il tema della produttività, che è il tema cardine della politica economica del nostro paese, tant'è vero che non se ne occupa nessuno. Ma questo è un discorso che dovrebbe riguardare anche la stessa classe dirigente, perché evidentemente c'è un tema di investimenti che anche gli stessi privati non hanno fatto. Molti hanno scelto la rendita anziché mettere i soldi nelle aziende per creare reddito e occupazione, insomma. E allora tutto il tema della produttività richiama il grande discorso della formazione, richiama il grande discorso della digitalizzazione del paese, degli investimenti che sono necessari, insomma, di un nuovo rinascimento industriale con Industria 4.0, che per la verità, e questo è un merito del governo, provvedimenti positivi ci sono stati, e tant'è vero che se guardiamo i dati congiunturali vediamo che la crescita, per esempio, degli investimenti in nuove macchine, utensili, per fortuna è a doppia cifra. Sono a doppia cifra ed è un dato estremamente positivo, perché quello è un indicatore di quella che sarà la crescita futura, insomma. Io spero che ci sia un discorso sulla produttività che poi può essere declinata in senso civile, in serietà e responsabilità e solidarietà. Se c'è solidarietà, se c'è responsabilità nell'uso dei conti, se c'è invece un atteggiamento dispersivo, cioè un atteggiamento che non è responsabile, questo non porta ovviamente né a una maggiore equità né a una maggiore solidarietà. Per concludere, De Bortoli, ovviamente il libro Poteri forti o quasi, che è poi un excursus di oltre 40 anni nel mondo del giornalismo, raccontato nei minimi dettagli, però ha avuto questo momento anche di celebrità, di grande polemica per i rapporti con il ministro Boschi e l'interessamento che lei raccontò nella vicenda Banca Etruria con Unicredit. Ma è arrivata poi una querela del Boschi oppure no? No, al momento no, però c'è tempo. C'è tempo. No. Intanto Ghizzoni non ha mai smentito. Non ha mai detto. Richiamiamolo perché ha una sua importanza. Ma come l'ha vissuta quella vicenda? Cioè, perché è stato un momento proprio di grande anche tensione. Per qualche giorno non si parlava d'altro. Eppure sono cinque righe di quel libro. Non di più, però. No, sono stati giorni intensi, ma per la verità... Ne ho vissuti diversi, insomma, in tanti anni, insomma, quindi poi le querele sono state notevoli. Poi alla fine mi sono scontrato un po' con tutti gli altri poteri, perché sono stato querelato da D'Alema, poi a un certo momento dagli avvocati di Berlusconi, e lì per la verità poi la causa l'ho persa in appello. E insomma, questo fa parte, diciamo, della vita dei giornalisti, insomma. È chiaro. Allora, noi grazie per essere stato con noi, Ferruccio De Bortoli. Lo ricordo, ovviamente, Poteri forti o quasi, La nave di Teseo è l'editore, per chi volesse anche leggete. Esatto, comprate anche all'estate, no, per letture, insomma, di uno dei protagonisti assoluti del giornalismo italiano. Per me, io lo dico, adesso non voglio imbarazzare nessuno, uno dei pochi maestri veri che mi meritano questo titolo. Concordo. Allora, a 800 24 00 24 è il numero di telefono. Andiamo un attimo in pubblicità. Ci sono tanti temi politici. Dai, sono andiamo quelli... a fare un po' di deficit subito in questa pausa, cari ascoltatori. In tre minuti ce la subito. Facciamo. Sì, non ti preoccupare. In tre minuti, c'è visto che c'è il corso renziano per i nuovi dirigenti è più rapidi nel deficit. Chi ne fa di più rapidamente, noi lo candidiamo. Stai attento, Opla, perché eri un po' troppo autoritario nel modo di dire. Sai che da domani c'è la discussione sulle nuove leggi molto più dure per la propaganda fascista. Ti ho visto con un tono, un piglio un po' troppo autoritario nel dire. No, magari non avevo abbastanza accento lignanese, però oramai i nuovi dirigenti erano scelti così. Chi la spara più grossa per fare più rapido deficit nel rapido volgere di tempo contro l'Europa prussiana che tende a metterci sotto il tallone, l'Italia ritrova il suo eroe. Andiamo in pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, siamo qui alle 8:46 minuti. Eccoci, caro Oscar. Guarda che ci chiamano gli ascoltatori, a cominciare da Rosanna, dalla provincia di Macerata. Sì, buongiorno, è un onore parlare con voi. Bene. Posso parlare? E come no, è in linea. Buongiorno. Io ho sentito qualche minuto fa che parlavate dei manifestanti di Pesaro. Sì. E capisco la vostra reazione, perché i messaggi mi hanno detto che sono stati molto violenti, però io volevo farvi riflettere su una cosa, che sono violenti perché nessuno in realtà parla delle ragioni, che sono abbastanza gravi. Ci prendete così in giro, i genitori dei danneggiati vengono ridicolizzati, nessuno ridicolizza i genitori. Sì, prima dei quando voi avete prima voi quando avete accennato alla manifestazione, a ciò che hanno scritto i manifestanti, insomma, non siete stati molto delicati, anzi siete stati abbastanza brutali. Io ci sono rimasta malissimo, ma io, come tutte sono stati brutali le per migliaia... i modi, per i toni e i modi soltanto la scusa, appunto, per non parlarne, perché è questo che sta succedendo. No, guardi, senta, io le dico le mie opinioni molto rispettose, perché io non ho insultato nessuno. Io è da ieri che continuo, sono riprese stamattina, che continuo a ricevere centinaia di lettere di insulti. Quindi chi le manda per me ha torto, tanto per cominciare. Okay, però parlate delle ragioni. Nel senso che chi vi ha confezionato questa strategia di comunicazione non sa, guardi, siccome sono liste, cosa, liste di testi, guardi, facciamo questo mestiere, sa da quanti anni, siccome i testi sono analoghi, le liste... Continuate a prendere in giro me comunque. No, guardi, lei mi ha chiesto un'opinione, lei come vede risponde in maniera seriale, anche lei. Allora, no, lei ha detto che noi abbiamo mancato rispetto, guardi, io non ho mancato rispetto a nessuno e Alessandro non è mai. Allora parlate delle ragioni. Due, le lettere di insulti ottengono la giusta risposta. Ma guardi, adesso... Chi crede di essere in buona ragione perché insulta non ha buona ragione. Le ragioni adesso ce le dirà lei, però Rosanna, dire che non è organizzata quando le mail sono tutte uguali e alcuni in questa mail sono stati certo. talmente ingenui di lasciare sopra la loro mail l'appello di qualcuno che dice vi preghiamo copiate e mandate questa mail in maniera seriale come potete, quindi mi dice che non è organizzata e allora ma è una va è bene un ci dica per perché manifestavate sentire. Ci dica perché manifestavate prima di tutto in solidarietà dei danneggiati da vaccino che sono abbastanza ignorati e non si capisce bene la motivazione, quindi ci piacerebbe che altri giornalisti oltre quelli che già fanno qualcosa, però ci piacerebbe che altri giornalisti, soprattutto della televisione o di radio come voi, insomma, facessero ogni tanto sentire. Quando ci sono stati dei danneggiati da vaccino, quando sono stati accertati, pochissimi casi accertati, sono stati, secondo lei? Non lo so, ma sono pochi, molto pochi. Quanti secondo lei? Intanto quelli accertati sono quelli per sentenza accertati, non quelli che dicono che sono danneggiati da vaccino. No, quelli accertati dal tribunale, quanti sono? Sono secondo molto lei? Pochi, non lo so, lei sono lo saprà. Solo 1000. Ecco, vede, secondo lei? E ce ne sono altri molto pochi, guardi, sono stati vaccinati. Sono state vaccinate miliardi di persone, lo so che è brutale dirlo, ma 1000 statisticamente sono un granello di sabbia nei chilometri e chilometri di spiaggia. Anche fosse un granello, una controindicazione, secondo lei, per suo figlio, non avrebbe così piacere di fare una scelta? Ho fatto un'intervista lunga, gliela manderò. Le assicuro che è molto... Molto statisticamente. Ma non è che me lo deve assicurare lei. Statisticamente, ma cos'è? È una specie di jukebox, secondo lei? Chissà se riesco a finire la frase. Statisticamente è molto più rischioso prendere un'aspirina di fare un vaccino. Ma l'aspirina non è obbligatoria. Non dite sempre le stesse cose. L'aspirina non è obbligatoria e soprattutto le statistiche vanno certificate. Le manderò la statistica accertata dalla scienza, che non è lei e non sono non io, ma è la scienza. Sì, ok. L'argomento però non può essere io mando le mie statistiche, voi mandate le vostre. Ci sono decine, centinaia di medici, di ricercatori, di operatori sanitari, di avvocati che parlano, che dicono, che vogliono dire la loro. Certo. Perché sono tutti ignorati? Non sono ignorati perché lei stessa sta dicendo, però ci ha chiesto le loro opinioni, mentre invece esistono poi le casistiche, le percentuali che sono quelle asseverate dalle autorità sanitarie nazionali e internazionali. Sì o no? Quelle sono le statistiche. Certo. Sono le statistiche. Allora, se guardiamo a quelle, tipologie, non è come dite voi, mi dispiace. Non è come dite voi, a essere proprio sinceri, capite? Lo vedete che sinceri. È un argomento che non regge. Guarda, no, perché la vostra opinione, che io posso rispettare in termini di libertà, sa perché no, non la rispettate, perché se si sbaglia tipo, e comunque non la voglio convincere, si sbaglia e la voglio convincere. Voi confondete il dibattito scientifico come se fosse l'articolo 21, il pluralismo prima della campagna elettorale, mentre invece la scienza non è par condicio. Stiamo scherzando, è proprio questo il punto. Di fronte all'obbligo farmaceutico lei scherzi con chi vuole, ma non sulla base degli insulti a noi, sull'obbligo di informazione, quello che fa testo per chi fa il mio mestiere, prima delle opinioni, sono le statistiche ufficiali. No, ma esatto. Ok, tutto quindi qua. Sono più importanti i vostri insulti piuttosto che la vita dei bambini. Guardi, per quello che mi riguarda, no, gli insulti se li tiene a me, perché guardi, questa no, base questo, non è dialogo. Stiamo parlando di un obbligo farmaceutico. In questa situazione l'unico che ha insultato è chi ha insultato noi, e noi non abbiamo insultato nessuno. Ribadiamo comunque, non lei, le mail. Comunque, no, infatti io non difendo il punto insulta, fondamentale è che la scienza, come si suol dire, sì, non è par condicio. Lo so che può sembrare, mediti su questo, poi la dobbiamo salutare, abbiamo avuto tanto. La scienza non è democratica, cioè, come si suol dire. La scienza è quella roba lì basata su statistiche, metodo la scientifico, review, metodo sperimentale, punto, numeri accertati, replicabilità. Quindi, e non siamo noi portatori della scienza, tantomeno lei, ma gli scienziati, che sono persone terze, che non sono, a meno io non li percepisco così, dei portatori di interesse economici nascosti, cioè, immunologi, epidemiologi, patologi, queste cose o reconditi. Comunque, vabbè, ecco, però metterla poi, state la parte sulla base del fatto che siete perseguitati, perdoni, altrove qua no, soprattutto il vale più questo che il che i bambini, come se noi fossimo noi, io e Oscar padri Giannino, sterminatori, degli sterminatori dei di bambini, dei nostri figli e dei figli altrui, no? Va bene, comunque la ringraziamo Rosanna della provincia di Macerata, credo che potrà dire però che è interessante, troverà è una delle... telefonata che esprime esatto. Tutto quello che c'era nella mente. E credo che potrà dire che è una delle poche radio che ha dato voce, come vedete. Attualmente, continuate a scriverlo, i nostri indirizzi sono pubblici, però se non insultate magari si può riuscire anche a dialogare. Allora, c'è Roberto da Firenze, buongiorno. Però magari buongiorno. Facciamo così, le possiamo chiedere di attendere un attimo che andiamo in giornale radio e lo recuperiamo dopo le 9, perché ci perdoni, nei tempi radiofonici poi ci hanno portato via molto a discutere con Rosanna, è una discussione interessante, ma andiamo avanti fino alle 9.30 tanto, state con noi e ripartiamo dagli ascoltatori dopo il giornale radio. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. La Prima Guerra Mondiale ha avuto la sua meglio gioventù. Erano i ragazzi nati nel 1899, ultima leva ad essere chiamata alle armi. E quest'anno diventano maggiorenni altri ragazzi del 99, nati 100 anni dopo, nel 1999. Diventano grandi non in guerra, ma partono anche loro per studiare all'estero, per conoscere il mondo grazie ai viaggi low cost, per fare volontariato per una gara sportiva. Radio 24 ve li racconta i ragazzi del 99, incontrandoli e facendoli parlare. Di cosa fanno, cosa vorrebbero cambiare, come disegnano il loro futuro. Ritratti di ragazzi straordinariamente normali. I ragazzi del 99 di Maria Piera Ceci. Il sabato alle 14.30 e la domenica alle 9.30 su Radio 24. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar, siamo qui e c'è Roberto da Firenze che ringraziamo per la pazienza. Eccoci qua, la promessa è mantenuta. Roberto, buongiorno. Pronto? Eccoci. Pronto, buongiorno. Eccoci. Pronto, buongiorno, mi sentite? Benissimo, dica. Bene, buongiorno. Allora, premetto che quello che sto per dire non è per approvare ciò che sta facendo il governo che ha fatto Renzi e le proposte che ha fatto e le idee che ha tirato avanti negli anni, perché su alcune sono molto critico, però... Vorrei fare un discorso più sui fondamentali macroeconomici, cioè noi abbiamo ormai da 25 anni a questa parte lavorato sul rispetto delle regole dove si sta assistendo meno di quanto si incassa al netto degli interessi e quindi stiamo tenendo un profilo virtuoso lato deficit rispetto paragonato agli altri paesi europei, in particolare Francia e Spagna, che si sono permessi tranquillamente di sforare il mitico 3% fino all'anno scorso, insomma. E quindi, come dire, chi ha fatto del deficit cercando di sostenere la domanda la domanda interna e facendo al contempo delle riforme lato offerta che hanno permesso all'economia di recuperare competitività, ne sta uscendo la Spagna in primis. La Francia è un po' diverso il caso, la Francia ha ancora problemi grossi da questo punto di vista, però dico, perché non pensare che un approccio del genere possa essere valido anche per l'Italia, quindi usare la flessibilità che si richiede, quindi queste stupide regole del fiscal compact che uniforma tutti i paesi come se fossero tutti uguali, e quindi cercare di fare politiche anticicliche che contemporaneamente, sostenendo la domanda interna, consentano di fare quelle riforme che danno competitività. Ultima chiosa, e poi lascio a voi. Non si può pensare che tutta un'area comune di 480 milioni di abitanti diventi tedesca, perché i tedeschi hanno surplus di partite correnti del 9% del PIL, quindi stanno crescendo a discapito del mondo che consuma per loro, e non è pensabile che lo faccia un'area che invece sta diventando tutta quanta attiva in partite correnti e quindi consuma, e quindi cresce perché il resto del mondo consuma più di lei e quindi fa domanda per le merci e per i servizi. Va bene Roberto, tre osservazioni flash. Primo, gli altri paesi hanno fatto più deficit di noi perché, se lo ricordi, avevano un debito pubblico molto inferiore al nostro, avevano capacità di spesa in deficit, perché loro fanno deficit quando le cose vanno male e mettono fieno in cascina quando le cose vanno bene. Ok? Questo primo, quindi la cosa di dire Spagna, Francia, dimentica questo, ed è un errore indimenticabile, invece non ce lo si può dimenticare se uno si occupa seriamente di queste questioni. Secondo, perché non farlo adesso, visto che lo hanno fatto prima? Perché adesso infatti l'economia riprende, quindi lei ha invocato politiche anticicliche, invece fare più deficit adesso è esattamente prociclico. Almeno il vecchio Keynes, quello che vuole il deficit, lo vogliamo rispolverare? Ecco, siccome adesso, a differenza di anni fa, quando comunque abbiamo fatto più deficit e ne abbiamo fatto meno degli altri nell'unità di tempo perché avevamo più debito, ma adesso farlo è un doppio errore persino per Keynes. Pensi un po', perché adesso bisognerebbe mettere fieno in cascina, ma noi, siccome non lo abbiamo fatto prima perché abbiamo fatto salire la spesa corrente, ecco che adesso a farlo raddoppiamo l'errore. Tutto qui. Poi io non voglio impancarmi a maestro di nessuno, resta il fatto che il fiscal compact non ce l'hanno imposto, l'articolo 81 della Costituzione, che non è vero che impone il pareggio di bilancio, tant'è vero che non ce l'abbiamo il pareggio di bilancio, non ce l'ha imposto nessuno, il bail-in non ce l'ha imposto nessuno. Il problema è che arrivano le elezioni e ci si inventa ex novo piattaforme per prendere voti. Questo è, temo che non facciano bene alla credibilità italiana. Poi ognuno la può pensare come vuole sulla regola europea e su tutto il resto, ma basta vedere la reazione del PD, una parte del PD che oramai resta muta senza parole di fronte a questo fuoco d'artificio quotidiano. C'è intanto Sandro che ci chiama dalla provincia di Piacenza. Buongiorno Sandro. Buongiorno a tutti e due. Ho sentito quante volte abbiamo parlato che bisognava aiutare quei paesi, quindi i politici che parlano adesso fanno veramente ridere. Vi voglio lanciare una provocazione al dottor Giannino. Allora, lui parla sempre di noi di schiavi che non ci ribelliamo. Vi ricordate la diatriba sul 41 bis, via dicendo, Riina? Io propongo a Giannino, e li faccio io da volantinaggio, un referendum per politici corrotti, gente corrotta, delinquenti, mafiosi che uccidono la gente, di affittare dalla Guyana, che non è più francese, gli scogli della Cayenne. Questa gente, il 41 bis, io gliela farei fare lì. Giannino, lei è incazzato, io sono più incazzato di lei. No, capito, però penso che finiremo carcerati, esatto, io e lei, poi no, tra l'altro non sono dottore. Quindi facciamo un movimento, cerchiamo gli italiani. Il movimento della Cayenne. Sì, basterebbe fare, se gli italiani chiudessero le aziende, sì, le fabbriche, io faccio l'autista. Si lamentano tutti, qui bisogna chiudere le aziende, sì, e fare una marcia pacifica su Roma, andare sotto al Parlamento e fargli capire a quella gente anche lì la marcia su Roma, ma insomma, va sempre evitata. C'è stato un precedente che, come dire, non ha portato poi a dei momenti di grande illuminismo intellettuale. I politici da qualche anno dicono che chi ragiona così è antipolitico. Io ho sempre risposto che fino a che si comporteranno come si vede tutte le settimane. Oggi, per chi fa impresa, per esempio, entrano in vigore i nuovi voucher. Io vi invito, andate a vedere come funzionano, chi ne è escluso, chi ha più di 5 dipendenti, eccetera, eccetera. E datevi una risposta se quella è una soluzione adeguata, tanto per dire chi è veramente l'antipolitica in Italia. O che cosa vogliamo parlare, dei vitalizi? Una volta che erano arrivati dopo anni di polemiche con gente come noi e di polemiche dei cittadini come il nostro ascoltatore, avevano finalmente, Alessandro, imboccato la via del ricalcolo secondo la proposta di legge di un pidino, no? La proposta di che cosa succede? Che non avverrà, ovviamente. Ecco, allora uno constata questo e dice: poi saremmo noi gli antipolitici. Viene da sorridere. Sono loro stessi quando fanno questo tipo di mosse. Comunque, a proposito di politica, prima hai chiesto a Ferruccio De Bortoli, che era con noi, se saremo in grado di sopravvivere 10 mesi. Sì, certo, saremo in grado di sopravvivere. Ma come? Esatto. Con questa politica che punta già alle prossime campagne elettorali sulla Sicilia. Poi, appena finita la Sicilia, ci sarà le elezioni e in poi primavera. Più deficit, la guerra, non paghiamo la rata all'Europa. Ah, tra l'altro, Renzi, la prossima volta che dici che sono 20 miliardi di rata, fai polemica, io sono d'accordo, ma cita le giuste le frasi, perché commetti lo stesso errore di Salvini. Né tu né lui, quando dite 20 miliardi, fate una buona missione. Non sono 20 miliardi, ma ti guardi le cifre del sito del MEF e del tuo stesso governo ex, troverai che non andiamo mai oltre 15 miliardi l'anno. Non sono 20 miliardi, quindi se fate polemica ed è legittimo, almeno fatela con le cifre giuste, chiusa parentesi. C'è con noi, ci sono con noi, Elisa Calessi di Libero, ben ritrovata Elisa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Così come Marianna Aprile, ben ritrovata Marianna. Buongiorno, eccoci. Firma di oggi. Allora, pensate che io ho trovato oggi un'intervista più interessante, quella a Flavio Briatore, che dice che ha un compagno di 7 anni, suo figlio Nathan Falco, che porta il Rolex al polso, e da qui tutta una discussione con Antonello Caporale sul senso della ricchezza o no. Questo ho trovato, se si parla di politica, più interessante. E Briatore che parlava di Renzusconi, Renzi, Berlusconi, eccetera. Invece, cara Marianna, ci attendono 10 mesi in cui l'Europa sarà la cattivona, un po' per tutti, eh? Questo si è capito per tutti, per il Movimento 5 Stelle il Fiscal Compact, per Renzi il Fiscal Compact, l'immigrazione, anche per Salvini, per tutto, anche la carta igienica che è finita, non ci sono le mezze stagioni. Sì. Queste cose qua, l'Europa è, come è noto, poi vogliamo mettere, le donne ci tradiscono, noi uomini, chi cazzo è colpa? Ma della Merkel, è ovvio, Madonna. Con gli stranieri europei, esatto. Di solito eravamo noi con i bagnini romagnoli. Delle nostre compagne su tutti questi neri che vengono in Italia, ma a chi si devono, cari amici? Ma roba da pazzi. No, no. L'accostamento tra neri e spiagge in questi giorni però è pericolosissimo. No, solo so, era sì, sì, effettivamente sì. No, anche perché non so se avete visto a proposito di, diciamo, degli effetti che sulla gente ha questa deriva populista anche nel linguaggio, no? Dalla casa loro in giù o in su, fate voi. Cioè, c'è stata in questi giorni l'azione di Casa Pound a Ostia, no? Che è andata a spollare fisicamente i venditori ambulanti dalle spiagge libiche, cioè in 6-1 a cacciarli dalle spiagge. Questo per dire che oltre all'Europa cattivona e all'altro leitmotiv di questi terribili 10 mesi che ci aspettano, sarà lo scadimento ulteriore del linguaggio politico. Ma mi aspetto, guarda, gli aerei con le scritte sulle spiagge, quelle classiche cose estive che si vedono da Dolce Vita. Loro. Renzi l'ha detto, il clandestino sulla spiaggia che ti molesta è colpa loro. Ecco, questo succederà così. No, però veramente c'è in atto un furto, credo, senza precedenti. Perché se mettete in fila le anticipazioni, ammesso di riuscirci perché sono tantissime, del libro di Renzi di questi giorni, cioè, i temi di Salvini e Berlusconi che Renzi in qualche modo fa propri sono tantissimi, cioè dai Gran Commis che ce l'hanno avuta con lui durante il suo governo, ai Marò che li ha portati a casa lui, a differenza di Monti, alla distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo, alla politica vittima dei PM, cioè sta riprendendo in mano i cavalli di battaglia degli dei altri. Suoi ex. Beh, vabbè, ma ieri ha detto no al fiscal compact, che quando si è appena capito che sarà la battaglia del Movimento 5 Stelle sull'Europa, e poi la questione, appunto, aiutiamoli a casa loro, però non siamo come la Lega, che però è il cavallo di battaglia della Lega. Però per rimarcare la distanza con la Lega è dovuto risalire ai diamanti in Tanzania, cioè quanti anni sono? Sì. No, ma anche perché la mia impressione, non so Marianna e Elisa cosa ne pensano, io ho come l'impressione che sia scritto, siccome è evidente, perché si occupa di politica, che c'è un deliberato tentativo di coprire temi di destra, di elettorato di centrodestra, come ragionando che, ed era giusto fino alle amministrative, che fosse la più vasta fetta dell'elettorato che non andava a votare, votava 5 Stelle. Solo che è un libro scritto prima delle amministrative, ignorando che le amministrative dicono che torna a votare per il centrodestra quel popolo. Quindi non lo so quanto, magari sbaglio io, non so come la pensate voi. Non so, Elisa, che cosa ne pensi? Tra l'altro poi c'è anche da aggiungere che invece dal punto di vista del centrodestra che cosa si registra? La ricerca del nome, che tra l'altro in vista di un proporzionale non si capisce bene cosa voglia dire, lo farà Marchionne, Marchionne smentisce. Oggi il Messaggero dice: allora ritorna Marina Berlusconi, un'altra carta che viene tirata fuori ogni tanto. Ma vedi, ma che no, c'è la strada. Fare, e alla Berlusconi. Fine dove porta questa cosa che di uno, di nome ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Comunque Elisa, Elisa. Sì, la ricerca del leader centrodestra forse è la cosa più divertente, nel senso che insomma, il gioco dell'oca proprio si ritorna, come dicevi tu, nessun riferimento a Marina Berlusconi, per carità, no, in questa casa. Comunque cioè, anche devo dire divertente la risposta di Marchionne, comunque insomma se non altro vivacizza un po' il clima. Per quanto riguarda invece quello che dicevate prima, le anticipazioni del libro di Renzi, il dibattito in generale, a me sembra questo. Allora, posto il fatto che c'è uno scadimento generale, questo è brutto dirlo perché sembra demagogico, così, però un po' è così, cioè diciamo che la classe politica non è proprio, non brilla in generale e quindi tende a banalizzare i problemi. Detto questo, effettivamente siamo in un momento in cui abbiamo davanti dei problemi enormi, perché il problema di questo colossale spostamento di persone, di milioni di persone, è un problema enorme e che appunto non è di un problema di mesi. E dall'altro c'è il problema che siamo nella fase in cui ci rendiamo conto che la nostra capacità di decidere di noi stessi, delle nostre vite, dei nostri paesi è diminuita, nel senso che ormai molte decisioni non le possiamo più prendere noi, no? Ci sono organismi sovranazionali, l'Europa, eccetera, eccetera. E quindi questo cortocircuito, da un lato la fatica della classe politica nazionale di affrontare problemi complessi e dall'altro il fatto che la nostra capacità di decidere in casa nostra è oggettivamente diminuita, rende tutti agitati e frustrati, cioè è come in una famiglia in cui ci sono dei grossi problemi, ma sì, si agita e non sa dove mettere le mani. Ma oggi, adesso, al di là, non è per nulla demagogia, oggi invito tutti a leggere Ivo Diamanti, sociologo e giornalista, scrittore, che su Repubblica firma quella che è la mappa delle parole, cioè aver sottoposto una serie di italiani al senso delle parole, lavoro, crescita, sviluppo, e associarlo al grado di fiducia che hanno, e verso i politici, in questa ricerca rigorosa, c'è una totale sfiducia e senza distinzione, cioè c'è una crescente e totale sfiducia verso tutto ciò che rappresenta la classe politica. Non è demagogia, ma è un dato di fatto accertato nella ricerca di Ivo Diamanti, senza distinzione. E questo, tra l'altro, Oscar, a me dispiace, perché in realtà le distinzioni politiche, se uno le va a studiare, ci sono ancora. Non è vero che sono tutti ladri, non è vero che sono tutti uguali, non è vero che sono tutti, c'è gente che ci crede, c'è gente che porta avanti idee, quindi non... Sì, il problema secondo me è che questa sfiducia nasce anche dal fatto che tu hai l'impressione che la classe politica, la classe che governa, quando va al governo poi, è incapace di gestire le cose, di risolvere le cose, e questo forse è un paese ingestibile a priori. Cioè, perché uno dice, ma allora sono tutti uguali, a chi lo do il voto? Detto questo, vorrei spezzare una lancia, faccio quella di destra, visto che vorrei spezzare una lancia però a favore di questo, cioè del tema dell'immigrazione. Mi ricordo che ne avevamo parlato con voi in una puntata sullo Ius Soli, sì. Io dicevo, guardate che i sindaci di sinistra questo problema ce l'hanno, e infatti mi ha confortato l'intervista di Sala, che dice una cosa che non è certo un leghista o un cripto o uno di Casa Pound, però dice una cosa giusta che io ho verificato quando ritorno dalle mie parti, e cioè in Emilia Romagna, che appunto non è una zona di destra. e cioè il problema dei sindaci è quello di trovarsi questi migranti o profughi o migranti economici eccetera che non hanno nulla da fare, cioè che spesso vengono pagati dallo Stato senza aver nulla da fare. Infatti Sala diceva bisogna trovare il modo di farli lavorare, perché questo è il punto, cioè la gente è scocciata perché vede 100, 200, 50 persone, però in un paesino di 1000 persone anche 50 persone che inattivi, non fanno niente si notano. Marianna, che volevi dire su... No, dicevo a proposito della ricerca di diamanti a cui facevate riferimento, è vero, cioè, che è inquietante questa mancanza di partisan, di fiducia nella classe politica, però cioè, è anche, e qui il cerchio si chiude, è anche figlia della mancanza di coerenza, cioè la fiducia va alimentata con l'affidabilità, tra virgolette, no? Cioè, io mi affido a qualcuno e mi fido di lui se so che terrà fede a quel che dice. Queste continue giravolte, anche solo di linguaggio, ripeto, sono a volte penso controproducenti per lui e molto invece utili a chi a sinistra si sta organizzando, quindi rischia di fare la campagna elettorale di Pisapia continuando a parlare così di Renzi, però sono autodelegittimanti, cioè l'elettore che fino a ieri ti ha sentito additare come populiste certe espressioni e poi le sente difendere di fronte agli attacchi, perché mai dovrebbe poi affidarti il suo voto, cioè, non questo c'è sì. motivo. Senza dimenticare che poi ci sono gli elementi di fondo che riguardano le specifiche strutturali delle politiche seguite dalla destra e dalla sinistra, che sono più che analoghe, uguali. Cioè si vede che a comandare sono il ragioniere generale, il MEF eccetera eccetera, di fronte a politici che credono ogni volta di riempire i libri dopo le proprie spense di governo dicendo prima di me c'è stato il disastro, dopo di me c'è stato il diluvio. In questo Berlusconi e Renzi sono uguali, cambia lo stile ed è molto più seducente quello di Berlusconi, della durezza con cui Renzi dice ai suoi non me ne frega niente delle vostre carriere, ma di fatto cosa hanno visto gli italiani? La destra e la sinistra hanno dato coi loro leader oramai più gotici riforme organiche delle tasse? No. Hanno inciso sulla spesa? No. Hanno inciso in profondità su centro e periferia? No. Entrambi hanno detto la periferia tagliamo più voi di quanto si mette il bavaglio al centro. Poi questo è quello che gli italiani alla fine hanno visto. Cosa hanno visto? Da una parte Berlusconi, un profluvio di bonus sull'elettorato considerato più vicino al centrodestra. Sinistra, hanno visto bonus di sinistra, bonus agli incapienti, a meno? No, hanno visto anche in quel caso 50 miliardi di bonus su scala di reddito, primo chi il reddito del lavoro ce l'ha già, secondo medio, medio basso, ma comunque medio, medio basso, non l'Italia dei 4 milioni delle fasce diverse di povertà. Quindi hanno torto gli italiani a dare un giudizio su politiche così analoghe? Secondo me mica tanto, ecco, cioè non è così essere antipolitici, danno un giudizio politico. Io la vedo così, magari Elisa e Marianna vedono una vera differenza tra le politiche. Certo ci sono, gli amici del Giglio Magico non sono quelli che erano intorno a Berlusconi, però la logica è molto più simile di quanto non sia diversa. Ma vedete che ritorniamo a Briatore, che vede Renzusconi, vedi Marianna, Renzusconi. Solo che con Briatore è facile fare la semplificazione antropologica. No, ma è chiaro, no, ma invece c'è Angelo da Roma, sentiamo cosa ci dice Angelo che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno, scusate il disturbo. Dica. Io sono fortemente deluso, preoccupato come cittadino italiano onesto. Ma perché siete così qualunquisti, disfattisti? Parlate male solo del mondo intero. Ma poi se ci sono andati quelli, sono stati gli stessi italiani a mandarceli. Basterebbe... Su questo non c'è dubbio. Sì, però voi alimentate, soprattutto Giannino, vada a fare lui il ministro dell'economia, non lo può fare. Ma perché parlate sempre male di tutti? C'è la RAI, per quello, di famiglia. C'è quello, per quello che chiede lei famiglia. C'è la RAI, parlare bene dei governi pro tempore. Questo è, guardi, no, non mi interessa. E allora però l'obiezione perché critico? Io critico in base a numeri, fatti. Lei non può non essere d'accordo. Ma l'idea alimentiamo il sostegno alla fiducia della politica, guardi. Tutte le sue trasmissioni, lei parla male del mondo intero. E allora? È possibile che non c'è qualcosa? Io cito Scalfari, sì. Che per me è illuminare. Che va dal Papa a proporre addirittura la benedizione di Pascal, siamo ad altissimi livelli, sì. Ma poi scendete troppo in basso, abbiate pazienza. Ah vabbè, e allora ci iscriveremo al corso per la santificazione. Fate un episodio, magari seguitate così, però ogni tanto citate sempre un episodio positivo, che va bene anche per noi. Ma guarda che episodi positivi e racconti positivi. Ma non è vero. Ma chi ha detto che non ci sono? Ci sono, grazie al cielo e malgrado tutto, le imprese italiane fanno 400 miliardi di surplus commerciale italiano. Non diciamo sciocchezze. Chi l'ha mai detto che in Italia non ci sono cose strepitose? Non l'ha mai detto lei, vero? Ma lei forse ascolta un sosia, non so come dire. No, guardi, chi dice lei critica ed è qualunquista, non ama le critiche. Siccome nel tempo ho criticato negli anni i governi di centrodestra, Monti, quindi quelli tecnici, e adesso, dato di fatto, non all'inizio Renzi, ma poi alla fine come attore, quello che non piace è che di volta in volta i sostenitori dicono quello che dice lei. E io lo rispetto, legittimamente, è legittimo, però siccome non mi si può dire che ho criticato solo una parte contro l'altra, dopo tanti anni non è così, per quello che riguarda la politica. Ma questo non significa che questo è un paese perduto, è un paese però col debito più alto. Chi l'ha fatto? Lei? Io? No. Cresce meno degli altri. Motivo? Lei, io, no, e così via. Ma poi voglio dire, quando ci sono spiragli, appunto, l'esempio che ci dai prima del contributivo per i vitalizi, abbiamo ospitato Richetti dicendo forza, siamo con lei, lui ci credeva, lui ci crede, ci tenga aggiornati, è una cosa positiva. Se poi non si fa, se poi non si fa, siamo antipolitici a dire che è una buffonata, no, oppure sono i buffoni io, che fanno i buffoni? Non è una trasmissione, parla il Ministero dell'Economia, ecco. Lo faccia lei. In ogni caso, che bello quando le trasmissioni sono così vive, da certo. Rossana da Macerata che ci critica sui vaccini. Ah, è giusto, perché l'idea è che l'informazione deve essere al servizio, cioè un progetto costruttivo. L'Italia torna sui mercati mondiali forte. Stai del attento, suo. È questo riflesso condizionato, è questo. Dai, allora noi ci dobbiamo fermare ringraziando Marianna Aprile e Elisa Calessi che ci danno sempre uno spunto insieme a Annalisa Cuzzocrea, sono un po' le nostre tre, come dire, le tre punte di diamante della lettura politica del lunedì. Tra le muse e le grazie. Tra le ti muse piace le questa grazie. Cosa, mi è molto così, le nostre tre punte di diamante. Sto pensando al Milan e quindi metto in tanto le nostre tre bombe. Poverette, solidarietà alle colleghe, pensa al Milan, capito? Pensa di farvi un complimento. Non lo so, magari sono anche loro tifosi del Milan e vedono questa campagna scoppiettante, campagna acquisti del Milan coi soldi. Potremmo usarli coi soldi dell'Europa. Usiamo i soldi, tanto noi non li avremo tra due anni, quindi usiamo i soldi dell'Europa. Bravissimo. Per comprare pim pum pam, il deficit per comprare. Tutti. Dai, ci fermiamo qui con Lorenzo Nespoli in redazione, Elisabetta Fusconi in redazione, Chiara Compagnoni in redazione e Peter Bescapè in regia. Tu alle 4:30. Io alle 4:30. Abbraccio ovviamente al popolo di Pesaro, perché vedo che ho visto altre mezze. Non ce l'ho con nessuno. Non c'è con. Oh, mamma mia, storia ancora dei vaccini. Va bene, dai, affronteremo anche questa. Andiamo al caffè.